Il Terzo Anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Iaia Forte legge L'isola di Arturo, di Elsa Morante. Gli accenni occasionali di mio padre erano venuti a confermarmi che lui e il condannato del Molo già si conoscevano ed erano amici prima di quel famoso giorno che io li avevo veduti sbarcare da una stessa nave a Procida. E l'oscuro favore non poteva essere un caso che aveva portato colui sul territorio caro a mio padre, era per me una riprova di una sorta di complicità magica esistente fra i due. Il contegno ostentato dal giovane allo sbarco non bastava a farmi credere che egli non ricambiasse l'amicizia di mio padre, giacché l'insolenza in colui mi pareva un abito naturale, come la pelle maculata per il leopardo. Ignoravo il delitto commesso dal nostro carcerato, ma avevo motivo, però, di attribuirgli un delitto grave, giacché la casa penale di Procida raramente ospitava delinquentucci di poco conto, e secondo la mia visione, la condanna che più gli somigliava era quella dell'ergastolo, per cui nei miei pensieri finii a nominarlo quasi sempre col titolo di ergastolano. Una tale idea, che egli fosse murato a vita, poteva essere anche di qualche consolazione per me, ma si trattava in realtà di una consolazione povera quanto crudele. Sentivo, difatti, che la qualità di ergastolano, se da un lato limitava la padronanza di colui su mio padre, dall'altro lo magnificava più superbamente ai suoi occhi, non meno che ai miei. Intanto, la mia fede bambinesca e superstiziosa nell'autorità di mio padre, un'autorità più che umana, capace di ogni portento, ricominciò ad agire. Sapevo che, secondo la legge, i reclusi del bagno penale potevano ricevere visite estranee solo a radi intervalli e per la durata di pochi minuti e sempre alla presenza dei secondini. Ma pure, in qualche fondo inesplorato della mia mente, s'andò radicando l'opinione che mio padre, uscendo ogni giorno, si recasse ad un convegno dal carcerato. Grazie a chissà quali poteri astrusi o subdole corruzioni per corridoi sotterranei, segreti, essi si incontravano e si trattenevano insieme ogni giorno. Ora, nella solita regione dormiente della mia fantasia, come in una nebbia opaca, questi loro incontri prendevano una figura imprecisa, ma misteriosamente orribile. Si era giunti ormai alla fine di settembre. Un giorno mi attardai tanto in alto mare con la mia barca da lasciar passare l'ora che di solito mi recavo a trovare Assuntina. Quando sbarcai a terra, giudicai che dovevano essere circa le 4 del pomeriggio, e infatti udii di lì a poco dal campanile suonare le 4:15. Decisi che era troppo tardi per andare da Assuntina e rinunciai a lei per quel giorno. Portato dalla mia mente distratta, mi ritrovai lungo la ripida salita dei due mori, che finisce sulla piazzetta del monumento. Da essa partivano in tutto 4 vie. Una era appunto la scarpata dei due mori, un'altra era quella da noi tante volte percorsa in carrozza che scendeva verso la contrada del porto e che poi dal lato opposto della piazza continuava, cambiando nome, nella mia famosa straducola fra i giardini. L'ultima, infine, la più ampia, ben lastricata sul lato di ponente, si snodava come un tortuoso belvedere verso l'altezza della rocca. La medesima balaustra della piazzetta proseguiva lungo il suo fianco esterno, lasciandola così, in quell'ora, aperta anch'essa, come la piazzetta, al sole pieno, che l'accendeva di un rosa arancione meraviglioso. Questa era l'unica via dell'isola che conduceva alla porta della terra murata. Così il popolo, il ricordo delle antiche fortificazioni, chiama la contrada del penitenziario. Era di qua che passava la camionetta recante nuovi prigionieri su dal porto, e non so più da quanto tempo io non passavo per questa via che oramai per me era come scancellata dall'isola. Ma quel giorno la scelsi distinto, senza molta esitazione né meraviglia, avvertendo solo un rapido batticuore, come se, con l'infrangere il mio divieto, compiessi un atto temerario, pieno di solennità. La lunga striscia della strada, fino all'ultima svolta visibile, era deserta e mi dava un senso di riposo salire per quella calma incantata che pareva quasi offrirmi un rifugio nella sua orrenda malinconia. L'isola, che stendeva in basso la sua forma di delfino, fra i giochi delle spume, con i fumi delle sue casette, il brusio delle voci, mi appariva lontanissima e non più maliosa per me, che cercavo malie più severe. Io mi inoltravo in una zona fuori dell'anno, dove la fine dell'estate non portava né speranza né addii. Lassù, nei tragici palazzi della terra murata, durava sempre un'unica stagione disperata e matura, divisa dal mondo delle madri in una devastazione superba. Verso il sommo della salita, a sinistra, opposti alla balaustra, incominciavano i primi fabbricati del penitenziario, con le abitazioni degli addetti, gli uffici, le infermerie. Al termine, la salita si slargava in una terrazza che offriva su due lati la vista del mare aperto all'infinito di una freschezza celeste. Qui sorgeva la gigantesca porta della terra murata, con la sua profonda volta di pietra e le garitte per le sentinelle scavate nei pilastri. Davanti a una delle garitte passeggiava sempre una sentinella armata, la quale però non interdiceva l'ingresso ai liberi passeggeri, perché al di là della porta, oltre alla città delle prigioni, esisteva un borgo popoloso con chiese antiche e conventi. Come giunsi alla terrazza, vidi a pochi metri da me mio padre, che mezzo seduto sulla balaustra, con le spalle rivolte alla veduta, in una specie di apatia fantasticante, si lasciava spettinare i capelli dalla brezza ponentina. Mi arrestai, trasalendo, allo scorgerlo. Ma egli non si accorse di me. Il suo volto, angoloso per la magrezza, sembrava, contro la luminosità del sole al declino, quasi un volto adolescente fra l'ombratura della barba trascurata che diventava simile a una lanugine d'oro. Di lì a poco egli si mosse, nel suo vestito di tela azzurra stinta, sbottonato sul petto bianco e qua e là sventolante nell'aria, e si internò sotto l'arcata della porta. Allora anch'io, prendendo un passo strascicato per mantenermi distaccato da lui, mi avviai nella stessa direzione. Mi pareva ormai di aver saputo già da prima che ero venuto qui per spiarlo, e avvertivo che forse fin dall'inizio dell'estate mi ero preparato a seguire, una volta o l'altra, le tracce del suo mistero. Di sotto il passaggio a volta della porta, lugubre corridoio affrescato sull'intonaco, dall'alto in basso, di croci di un nero polveroso, si usciva sulla piazza centrale della terra murata, che per l'immensità sembrava un piazzale di metropoli, ma era sempre stranamente deserta. A sinistra di questa piazza, in fondo a un ripido valloncello lastricato, un cancello sbarrava l'accesso a una vasta corte gialla e nuda, in cui si levavano enormi fabbricati rettangolari. Sul cancello si leggeva la scritta «Casa di Pena» intorno a un rilievo colorato di Santa Maria della Pietà. Quella era l'entrata del penitenziario. La mia mente, intanto, si era fatta inerte, ma una certezza bulica, quasi sconsolata, mi diceva che Wilhelm Gerace camminava ormai disarmato innanzi a me come una guida inconsapevole, e che inevitabilmente io, fra poco, non sapevo come, sarei stato condotto fin dentro il teatro dei suoi misteri. Non provavo nemmeno curiosità, ma un senso di smemoratezza o di malattia, simile a quello che si prova in sogno. Dovevano essere passati al massimo 5 o 6 minuti, e mi parevano ore da quando avevo varcato la porta della terra murata. La meta di William Gerace, ormai da questa parte, non poteva essere che una, il castello antico. Era là, evidentemente, che avevano assegnato al carcerato la sua dimora. Egli doveva abitare in una di quelle piccole celle, dalle finestrucole a bocca di lupo che davano sul mare senza vederlo, e verso le quali i viaggiatori dei piroscafi, affacciati curiosamente ai parapetti, puntavano nel passaggio di Procida la loro attenzione triste. Ma benché la meta di mio padre non potesse essere che quella sola, egli seguitò per un pezzo ad aggirarsi disordinatamente qua e là per i vicoli e straducce traverse intorno all'unica via, detta via del borgo, che conduceva agli accessi del castello. Quel suo andirvieni senza senso faceva pensare al battere impazzito delle farfalle notturne intorno alle lampade. Infine si decise e, come mi aspettavo, prese via del borgo. Fu qui che, d'improvviso, io smarrii le sue tracce. Thank you. A meno di non avere le ali, era impossibile da questa parte della terra murata raggiungere le stanze del palazzo. E nel silenzio abbandonato che durava d'intorno a me, mi si riaffacciarono ogni sorta di visioni fantastiche riguardo a Wilhelm Gerace. Scalate, passaggi segreti, raggiri leggendari o forse anche la morte. Mi rappresentai lui che, deposti i suoi zoccoli di legno, precipitava sfracellandosi giù per la scogliera, e mi parve che oramai non mi importasse più niente, pure se era morto. Che egli fosse morto, vivo, vicino, lontano, mi era diventato indifferente. Bramai d'un tratto di essere già partito dall'isola, fra gente forestiera, senza ritorno, e decisi che in avvenire, a tutti i nuovi conoscenti che incontravo, avrei fatto credere di essere un trovatello, senza padre né madre né parentela. Abbandonato in fasce su una gradinata e cresciuto in un orfanatrofio o qualcosa di simile. Sbadigliai per insultare l'ombra invisibile di mio padre, ma snervato rimasi là, senza sapere che cosa aspettassi. Il sole era quasi del tutto sparito a mare, non so quanti minuti fossero trascorsi. Allorché udì lui, poco lontano, che cantava. La sua voce, che io riconobbi subito con una scossa, veniva dalle più basse, nascoste propaggini della montagnola, così che pareva salisse dal fondo del precipizio marino. Simile illusione dava alla scena la solennità inquieta dei sogni. Ma la cosa più strana per me era questa, anzitutto, che lui cantasse. Non lo si udiva mai cantare, per solito, e la sua voce di fatto non era bella, era, si può dire, l'unica bruttezza in lui, di un suono acido, quasi femminile, disarmonico. Ma proprio perché mancava di musica e di grazia, questo suo canto, misteriosamente, mi commosse ancora di più. Credo che nemmeno la melodia di un arcangelo avrebbe potuto commuovermi a quella maniera. Cantava una quartina di canzonetta napoletana, una fra le più risapute, che io conoscevo, si può dire, dall'epoca che avevo imparato a parlare, e per me era diventata comune e banale da quante volte l'avevo intesa e ripetuta per mio conto. Quella che dice «Non trovano ora i pace, a notte faccio iurna, sempre per stacca attorno speranne te parlà». Ma lui la cantava con un'amarezza di persuasione così rozza e disperata che io stetti ad ascoltarla come se imparassi una grande canzone nuova, di significato tragico. Quei quattro versi, col loro motivo che lui cantava lento, strascinato, gridato, mi pareva proprio che ragionassero della stessa solitudine mia. Di quando me ne andavo girovagando scansato da Nunz, senza amicizie, né felicità, né riposo. E di oggi, che ero finito su questa montagnola di miseria, in questo temerario nascondiglio, per capire l'ultima tristezza. Non riuscendo a scorgere da dove mi trovavo la persona di mio padre, montai su una sporgenza del muro, dietro il quale stavo nascosto. E di lassù, spiando per un'antica finestra rotta, scorsi subito il mio cantante. Se ne stava solo, mezzo steso su un lembo di terreno fiorito d'erbacce, in fondo agli ultimi scoscendimenti verso la scogliera, e da quella stretta aiola dirupata, come un misero rospo che canta la luna, cantava verso il palazzo. I suoi occhi erano fissi precisamente a una di quelle finestruole che si potevano scorgere anche da terra. Era una finestruola isolata, a mezza altezza, e come le altre sue compagne, non dava segno di vita. Là, per il piccolo vano aperto al di sopra della bocca di lupo, nient'altro che silenzio e buio. Tuttavia, pareva che mio padre aspettasse una qualche risposta al suo canto. Alla fine l'inutile canto cessò, ma in luogo del canto di lì a poco udii salire dalla valletta nascosta, in un nuovo tentativo di richiamo verso la finestruola, dei brevi fischi ritmati, e all'udirli tremai d'un tratto morso dalla gelosia. Avevo subito riconosciuto al ritmo di quei fischi un linguaggio segreto di segnali, una specie di alfabeto Morse, che mio padre ed io avevamo inventato insieme ai tempi felici della mia infanzia e fanciullezza. Usavamo questo alfabeto di fischi per lanciarci dei messaggi a distanza durante i nostri giochi marini dell'estate e anche talora per canzonare, d'accordo fra noi, al porto o al caffè della piazza, certi tipi di procidani presenti e inconsapevoli. Ora, evidentemente il carcerato doveva essere stato messo a parte da mio padre di tale alfabeto misterioso che io credevo proprietà di noi due soltanto, mia e di Wilhelm. Quei segnali inventati mi erano da anni così familiari che, udendoli, io sapevo tradurmeli in parole meglio di un telegrafista anziano. L'emozione gelosa che mi aveva sorpreso mi fece perdere, tuttavia, le prime sillabe del messaggio. Il seguito che udì suonava così: né visite né lettere, niente, almeno una parola, che ti costa? Successe un nuovo silenzio d'attesa da parte di mio padre, ma la finestruola si ostinava nella sua sepolcrale indifferenza. Mio padre ripeté: almeno una parola. E ancora, dopo un altro silenzio: che ti costa? Alfine, per il piccolo vano in alto della finestruola, dove la bocca di lupo, allargandosi a mantice, lasciava scoperto l'ultimo tratto d'inferriata, si videro due mani aggrapparsi alle sbarre. Certo, anche mio padre le vide immediatamente e di impeto si levò in piedi, così che io potei scorgerlo dalle spalle in su che accorreva verso l'orlo dello scoscendimento. Là egli si fermò, quasi sotto al palazzo da cui lo separava, di soli 3 o 4 metri, il vuoto del mare. E rimase muto in attesa, come se quelle misere mani aggrappate fossero 2 stelle, apparse per annunciargli il destino. Di lì a poco le 2 mani lasciarono l'inferriata, ma il carcerato, certo, stava tuttavia là in piedi dietro la finestruola, forse montato sul suo pancone per arrivare fin sotto la bocca di lupo, e di là portava 2 dita alle labbra per lanciare più alti i suoi segnali di risposta. I suoi fischi, difatti, non tardarono a farsi udire, acutissimi e ritmati in una seguela di barbara monotonia. E subito, con un sentimento incredibile di certezza, in essi, come in una nota voce sferzante, fiera di adolescenza e di spregio, io riconobbi la strafottenza unica, esasperata del malfattore del molo. Il suo messaggio a mio padre, che io fra me tradussi pronto, consiste in tutto delle seguenti 2 parole. Vattene, parodia. Poi, più niente. Solo a me parve, forse per una semplice allucinazione dell'udito, di avvertire all'intorno, dalle prossime finestruole, un coro di risate basse, come un cupo e grande dileggio verso mio padre. Quindi si rifece un generale silenzio di sepolcro, il quale fu interrotto, poco più tardi, dal battere che facevano i guardiani di ronda con le loro mazze contro le inferriate per verificare le sbarre prima di sera. Questo rumore si andava avvicinando via via dalle finestruole invisibili della facciata sul mare, e vidi mio padre, a tale suono, staccarsi da dov'era e prepararsi a risalire adagio. Allora, nel timore che egli mi sorprendesse, corsi a precipizio giù dalla montagnola, rifacendo a passi affrettati la strada del ritorno. Lungo tutta la via, fino a casa, andavo ripetendo fra di me, per non dimenticarla, la parola parodia, del cui significato non ero ben certo, e giunto a casa andai a cercarla in un vecchissimo vocabolario scolastico che stava da anni nella mia camera. Alla parola parodia lessi «imitazione del verso altrui, nella quale ciò che in altri è serio si fa ridicolo o comico o grottesco». Così Wilhelm Gerace mi aveva giocato l'ultima insidia. Veramente, se egli avesse studiato il modo più malizioso di riprendermi sotto la sua malia, non avrebbe potuto inventare un gioco perfido al pari di questo, nel quale mi aveva attratto a sua insaputa. Adesso, cioè, mi appariva chiaro che nei suoi pellegrinaggi alla terra murata non lo aspettava se non una solitudine vergognosa, che lassù egli veniva mortificato e ripudiato come l'ultimo servo. E a simile scoperta, non so perché, il mio affetto per lui, che credevo soffocato e quasi spento, si riaccese in me più amaro, struggente, quasi terribile. Iaia Forte ha letto L'isola di Arturo, di Elsa Morante. Realizzazione tecnica di Lorenzo Grego, a cura di Fabiana Carubolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello, @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it.